Radio Città Fujiko è lieta di presentarvi Easy Pop. Conduce in studio Franco Paoletti. Regia del Bolognese Volante. Eccoci qua, buongiorno a tutti, ben ritrovati, buon pomeriggio in quella che è ovviamente la nostra puntata, la seconda di domenica 15 gennaio 2023, la seconda in ordine cronologico. Chi vi parla ovviamente è Franco Paoletti, al di là del vetro, come dico sempre, c'è il nostro onnipresente Bolognese Volante, senza il quale ovviamente la trasmissione farebbe più fatica ad andare avanti, vero regia? Lei sa cose che io buon pomeriggio. Buon pomeriggio a lei. Oggi abbiamo una playlist scoppiettante, tanti giovani e anche graditi ritorni, insomma una puntata molto molto interessante, e quindi vediamo di essere il più scorrevoli possibile e dare spazio ovviamente alla musica. Cominciamo con... Ma lo chiedo a me? Lo chiedo a lei. Fai, lei non sa così, nulla. A freddo? Va bene, allora. Serena De Bari e novità. Devo introduco, farlo partire? Introduco io, allora. Questa è una cantante. È una cantante che abbiamo già ascoltato qui dalle nostre frequenze. È una cantante che avete recentemente visto anche in quel di, se non sbaglio, Tale Quale, i giovani talenti, insomma, Tali e Quali, insomma, non il target, quello ufficiale, tali. Ma tali che sono tali. Quelli cioè non è la Tale Quale la trasmissione normale, è quella dove non praticamente tanti artisti sconosciuti improvvisati si improvvisano appunto Tali e Quali, ha capito adesso più o meno? No, ma è lo stesso, tanto io non faccio. Va bene, questo. Comunque l'abbiamo vista lì proprio e faceva la rappresentante di lista e ha avuto il suo momento di gloria e è anche stata brava. L'avete vista anche sicuramente per chi segue la De Filippi nel suo programma del 2016, quindi Serena De Bart ci presenta novità, il suo nuovo singolo per il 2023. Per sempre giovani, attorno a un mondo che continua a muoversi e non si fermerà davanti a niente, tipo te o me. Luci dell'alba, portami un caffè, sono le 12. Noi complici parliamo con i codici, non siamo mica come certa gente, parla tanto poi non fa mai niente, niente, niente. Dove vai? Rimani ancora un po', il sole aspetta noi, corri, stai attento, ti sento morire, non ti basta. All'inferno mi scoppierà la testa, ci sto dentro come dire di no, quando ti avvicini una tempesta, ci resta e non è una novità, non è una novità, non è una novità, non è una novità. Serena De Bari, non è una novità o novità. Novità, basta, si chiama così, novità. Tra l'altro noi abbiamo selezionato Serena De Bari prima appunto del Natale con il suo duetto insieme a Fiordaliso, ricorderà Fragole Champagne, vero? Per Bacco. Se lo ricorda, è stato suonato, quindi insomma complimenti a Serena che sta lavorando a un progetto davvero interessante. Come potrei averlo dimenticato? Sì, insomma, il ritorno di Fiordaliso si è fatto sentire, ovviamente. Anche quello di Serena Dari. E poi con Serena De Bari, che insomma aveva già i suoi singoli al suo carnet, e quindi questo è proprio il nuovo uscita discografica, uscita ora, fresca di settimana, come si suol dire, per quanto riguarda il 2023. Complimenti a Serena, se sono rose ovviamente fioriranno. No, basta con queste rose. Prendo il cioccolatino? No, cosa guardi, dice? Do un room direttamente. Annunci il prossimo brano. Vado ad annunciare la prossima. Benissimo, vado ad annunciare un altro EP molto interessante, quello di che viene proposto dalla voce di Carlo Valente, ci presenta Mentre qualcuno nasce a Belgrado. Questo è lo scioglilingue del suo singolo, che praticamente trova riscontro nel suo lavoro discografico che si intitola Metri Quadrati, edito da Toto Sound. Lui ritorna dopo una pausa di qualche anno, ritorna al la musica con questo singolo, direi di ascoltarlo. Martedì sera arriva per tutti, anche per quell'albero che guardi, che so, la domenica, mentre tu affoghi in città, perché si affoga in città. Pensa che quel piccolo pezzo di mare in cui hai benedetto la tua estate partecipa sempre ad ogni onda e si muove per ogni marea, che sia un giovedì di novembre o magari prima di una buona idea. Carlo Valente, Mentre qualcuno nasce a Belgrado, mi ha anche fuorviato perché diceva mentre un'altra parola anche. Sì, non lo so perché non sono stato attento, perché ero preso appunto dalla sua biografia che è veramente interessante. Lui debutta nel 2014 con un piccolo EP, poi nel 2017 arriva il primo album per lui, che lo fa praticamente girare un po' tutta Italia e lo mette in luce soprattutto, se non sbaglio, in quella ristretta di tromboni, come li chiamo io, che sono praticamente i giornalisti, quelli insomma addetti alle voi, che fanno il bello e il brutto tempo, ma in questo caso si segnala come uno dei migliori nella cinquina appunto delle targhe Tenco opera prima, e quindi insomma riesce così a mettersi in luce e a farsi conoscere, soprattutto far conoscere la propria così la propria scrittura, molto molto bravo. E poi cosa succede? Che è uscito appunto Metri Quadrati in questo anno, e quindi insomma cominceremo a conoscerlo un po' di più. Detto ciò, regia, detto ciò, che cosa abbiamo sul piatto numero 3? Allora, sale con l'accento sulla A con Scapperò. Ce l'ascoltiamo. Scapperò dai tuoi silenzi, prendo al volo il primo taxi, non saprò mai cosa pensi, tutti al cesso i nostri progetti, lo sappiamo baby. Scoppiamo insieme come due popcorn, ci siamo fatti entrambi un autogol, nemmeno il karma ci abbraccia, e dilla, dilla una parolaccia. I baci alla francese, la polizia in borghese, ad una festa all'università, ed io che sono scortese, col tuo gatto siamese, che non ci lascia un po' di privacy. Scapperò dai tuoi silenzi, prendo al volo il primo taxi, non saprò mai cosa pensi, tutti al cesso i nostri progetti, lo sappiamo baby. Nella vita ci vuole fondo schiena, sai la notte a vent'anni ci avvelena. Nella vita ci vuole fondo schiena, attenti al lupo che è luna piena. Passo la notte al tuo citofono, ma che ci faccio io a quest'ora, boh. Non era nei miei programmi fumarmi tutti quanti i miei drammi, e cantavamo e wind e stonavamo, sì. Scapperò dai tuoi silenzi, prendo al volo il primo taxi, non saprò mai cosa pensi, tutti al cesso i nostri progetti, lo sappiamo baby. Nella vita ci vuole fondo schiena, sai la notte a vent'anni ci avvelena. Nella vita ci vuole fondo schiena, attenti al lupo che è luna piena. Nella vita ci vuole fondo schiena, sai la notte a vent'anni mi avvelena. Sales, Scapperò, questo è il singolo di questo giovanotto, 21 anni, ed è una specie di Gianluca Grignani a vedere la foto, insomma è un bello tenebroso, come dire, insomma, che piacerà sicuramente alle ragazze. Parliamo di lui, 21 anni, si chiama Jacopo Sales, in arte appunto Sales, vive praticamente nel Salento, però insomma lo potete vedere un po' oggi a Milano, domani a Roma, insomma lui vive, non dico per strada, ma insomma porta la sua arte così dove capita, e fa, come si chiamano quegli artisti di strada, insomma hanno dei nomi, buskers. I buskers. Beh, fa il buskers insomma quando può, esatto, e quindi si può trovarlo nelle piazze, quindi state attenti voi che girate soprattutto in queste grandi città dove appunto questi artisti di strada possono esibirsi. Che dire di lui, che questo è il suo primo singolo di debutto, si chiama appunto Scapperò, però, e devo dire che ad acchiapparlo è stata Ada Music Italy, su etichetta Beat Sound, che insomma sta producendo delle cose davvero interessanti, quindi da tenere sott'occhio questo ragazzo, che sicuramente insomma tra talento e poi ha un bel figurino sicuramente, e ne sentiremo parlare di lui. Direi di passare alla prossima invece, regia, che sì, cosa, certo, abbiamo? Camellini, Ninna Nanna. Vogliamo farvi dormire? No, eh? Ascoltiamolo allora. Notti di novembre col 2% in più di Lexotan. Nel buio la mia stanza stavolta dice che mi aiuterà. Qui non c'è uscita. Respiro appena, ma gli occhi sono aperti e non mi sento più. Gambe di pietra, la voce stanca, mentre cado mille piani e sangue gela dentro. Ninna nanna, ad una festa, ninna nanna, brucia tutto troppo in fretta. È tutto buio intorno, il cuore non c'è più. Le ombre tutte intorno, poi mi tirano giù. Vedere ma mi toccano. Io urlo andate fuori, ma loro si avvicinano. Qui non c'è uscita, respiro appena, ma gli occhi sono aperti e non mi sento più. Provo a calciarli, ma non funziona. Chiudo gli occhi e prego Dio che sia l'ultima volta. Ad una festa, ninna nanna, che mi canto e spero smetta. Ninna nanna, che mi tormenta. Ninna nanna, brucia tutto troppo in fretta. È tutto buio intorno, il cuore non c'è più. Le ombre tutte intorno, poi mi tirano giù. Per tutte le volte che ho detto lo sai che stanotte la faccio finita, per tutte le volte che ho spento la luce pensando... Si chiama Matteo Camellini, ovvero sia in arte solo Camellini, si diploma in pianoforte al conservatorio e poi si trasferisce a Londra dove si laurea in Creative Musicship nella prestigiosa BIM, l'istituto appunto dedicato alla musica. Appare poi anche ad Amici di Maria nel 2016 per poi entrare nel cast di The Voice of Italy nel 2019 nella squadra di Morgan, e poi da lì è un crescendo perché ha inciso diversi singoli per arrivare insomma a quello che abbiamo ascoltato oggi, ovvero sia Ninna Nanna, che poi è estratto da un album appunto che è appunto è uscito solo in questi giorni. Complimenti a lui quindi. Camellini, ricordate Ninna Nanna, il suo pezzo, forse uno dei suoi pezzi un po' più tristi, nel senso che è più cupo in questo senso qui musicalmente parlando, però insomma ci ho già abituato a così a delle musiche, delle lyrics davvero più anche più vivaci. vibranti se ecco, non vivaci a parlare, no vibranti, perché vibranti, non so cosa vuol dire. va bene andiamo bene adesso a seguire con la prossima. Vieni a trovarci Stefani Finù, il pezzo. Sera in cui pioveva, tu con l'ombrello rotto e con il trucco sciolto, una Marlboro rossa per farti compagnia, il cielo che piangeva, ma il mondo se ne frega. Giornate interminabili e la monotonia era la tua migliore amica che ti teneva stretta mentre ti soffocava. traditi ormai da un po'. Aveva un cuore grande che un giorno si spezzò. Viveva nel silenzio con rumore nella testa e i sogni che ha lasciato appesi a una finestra. Stéphanie Finou. Esattamente così, pensate, il video è stato girato da Rocco Papaleo in quel dell'Etna, dove appunto vediamo la cantante che praticamente la vediamo che è presente tra i boschi eccetera, quindi andate a vedere il video se siete curiosi. Lei praticamente non è nuova, ha praticamente diverse incisioni, ci ha colpito questo singolo. Lei è appunto classe 1996, si chiama in realtà Stefania Lo Giudice e ha diverse esperienze in diversi piccoli talent, dove ha partecipato insomma a, diciamo, a diversi contesti e tra l'altro anche a quello dedicata a Raffaella Carrà con appunto Rumore Beam Festival, dove appunto gli artisti presentavano canzoni di Raffaella Carrà. Detto ciò, regia, velocemente andiamo con la prossima, ad appannaggio di Vincenzo Capua, e ci presenta Nella mia pelle. Cosa sei? Io non avrei già capito. Come mai sei convinta che tu non vuoi stare con me? Come fai a fare finta di niente, dimmelo? Come fai a dirmi che ora io non sono niente per te? I tuoi occhi, i tuoi sguardi, forti come cazzotti, le mie mani impacciate. Se dovevo sfiorarti, la tua fragilità, grande come la mia, i miei sogni impossibili, non mi ricordo più. Cosa vuoi quando mi fissi così con i tuoi occhi verdi? Non capisci che io potrei impazzire per te. Le canzoni d'amore e aspettarti per ore nei miei sogni impossibili, non mi ricordo più. Diciamo una canzone molto molto interessante per Vincenzo Capua, che gli addetti dei lavori conoscono come anche cantautore, perché ha prestato sia i suoi pezzi, ha prestato sia anche la sua prestazione come chitarrista a vari artisti della nostra musica italiana. Vado semplicemente a ricordare che Capua ha aperto concerti di Fabrizio Moro, per esempio, di Neck, di Niccolò Fabi, e che da qualche anno fa anche parte della Nazionale Italiana Cantante. Santi, che è stato anche tra i protagonisti del programma Edicola Fiore di Fiorello. E insomma, questo è il suo singolo, che è praticamente anticipazione di un album che uscirà solamente però a primavera. Quindi impariamo a riconoscere questa voce e anche a conoscere meglio Nella mia pelle, il brano che abbiamo ancora in sottofondo. Ma quante cose si sanno e si scoprono, Paoletti. Vero? Paoletti, è vero. Sono le 15:24, ultimo brano di questa prima parte, che è letteralmente volata, proprio volata. Allora mi dica cosa ci propone adesso la regia. Viene a trovarci Chris, CHRIWS, con Più niente. Ascoltiamolo. Sei solo adesso che cerco delle risposte di ciò che è rimasto impresso in figure contorte. La mia mente comincia a scappare dai ricordi che fanno sempre più male. Continuo a dirmi di dover lasciar stare, ma come si può restare senza amore? Più niente. Beh, parliamo anche di lui, perché no? Perché ci spostiamo in quella di Torino, e lei lo sa, anche lui è un artista piemontese, inizia a lavorare come vocalist nei club e nei più grandi festival piemontesi, per poi insomma arrivare a incidere appunto qualche singolo, carismatico, intraprendente, sicuro di sé. Incide appunto, come dicevo, tre pezzi nell'arco appunto di questo tempo, e che sono super visualizzati soprattutto su Spotify. E da qui in poi insomma viene così acchiappato da delle etichette che insomma si stanno interessando a lui e lo stanno cercando di lanciare. E a proposito di artisti torinesi, vado a salutare Tosques, che abbiamo visto ieri proprio in quel di appunto Bologna, che sta lavorando insomma insieme a Giancarlo Frigeri a un album. Di questo forse non dovevo parlare, però ho fatto lo spot, come si dice, non lo spot, spoiler, ecco, lei mi aiuti sempre. Bene, vado a mangiare un altro cioccolatino. Reclam, rientriamo fra pochissimo. Non andate via. Potremmo parlarvi dei materiali ricercati e durevoli, della linea e della forma dei nostri arredamenti, ma preferiamo raccontarvi come ci piace rendere la vostra casa unica e disegnata intorno a voi. Bertocchi Arredamenti, una grande passione per l'arredo dal 1964. Personalizziamo ogni vostro ambiente con falegnameria interna per adattare ogni arredo ai vostri spazi, con assistenza post vendita sempre presente e con i migliori brand nazionali come Stosa e Moretti Compact. Bertocchi Arredamenti è in via dell'Intagliatore 15 a Bologna e su bertocchiarredamenti.com. Bertocchi, ogni mobile una storia. A Bologna ci sono più di 800 pizzerie creative, gourmet, da asporto. Ma se io volessi provare il sapore di una pizza tipica napoletana? Te lo dico io. Se vuoi gustare la pizza napoletana verace, c'è Donna Margherita in via Lombardia 13C, nel quartiere Savena. E la pizza com'è? Ma stai pazziando, pizzaioli napoletani, forno a legna, ricetta tradizionale e materie prime campane. E non solo questo, ma di Napoli trovi anche l'atmosfera, sempre allegra, che mette buon umore. Wow, mi sta venendo voglia. E allora yam, ya, Donna Margherita è aperta anche per asporto e domicilio. Cerca pizzeria Donna Margherita sui social oppure chiamalo 051 54 44 22. Queer Cat, la prima parrucchiera queer a Bologna. Per tutte le esigenze, per tutti i tagli, per tutte le tasche. Scopri la nostra pagina Instagram Queer Cat Bologna, prenota un appuntamento e vieni a trovarci. 1, 2, 6, 9. L'età dell'oro, la mia vita raccontata da Andrea Pazienza. Mercoledì 25 gennaio alle 21 al Teatro Odeon di Via Libia 59 a Bologna, il debutto nazionale dello spettacolo in cui l'attore bolognese Andrea Scolese torna in scena e veste i panni dello scrittore Gianluca Morozzi, autore de L'età dell'oro, la mia vita raccontata a Paz, con la videoproiezione delle opere di Giuseppe Veneziano e la musica di Dandy Bestia degli Schiantos, Nicola Bagnoli e Moreno Spirogi degli Avvoltoi. Info e biglietti su vivaticket.com. Al Volga non si arriva. Lo speciale di Vallun in 4 puntate per gli 80 anni della battaglia di Stalingrado. Dal 15 gennaio, ogni domenica alle 11. Fame e macerie sotto i mortai. Radio Città Fujiko è lieta di presentarvi Easy Pop. Conduce in studio Franco Paoletti. Regia del Bolognese Volante. Eccoci rientrati in studio dopo la reclame, come si suol dire, seconda parte di Easy Pop alla puntata numero 2 di domenica 15 gennaio. Ovviamente siamo in diretta qui sui 103.100 modulazione di frequenza. Salutiamo anche tutta la fascia d'ascolto che ci ascolta in differita, perché no? 33 180 94 94 per i vostri short message. Noi siamo qui, insomma, vi rispondiamo, non c'è problema. Che dire, che siamo entrati in quella che è la seconda parte, quindi velocemente andiamo a presentare anche il prossimo protagonista che apre appunto la seconda parte. Trattasi di Coccilia e ci presenta La mia giostra. La gente sopravvive grazie ai sonniferi. Magari bastasse un parto a farti diventare madre. La gente ingoia antidolorifici. Magari bastasse Dio a rendere i preti santi. La gente sposa gente che non ama. Magari bastasse un matrimonio a renderti la vita meno disumana. Siamo giocattoli rotti, dentro vestiti puliti. Mi mangio ancora le unghie, troppi dolori riuniti. Gli amori di pasta frolla, tu dammi ancora un motivo per poter crederti ancora, sei come il tuo congiuntivo. Qua il mondo piange una discarica. Parlano d'amore e dopo sparano in faccia. Ballo con le tenebre. Più ai politici, vabbè, ovvio, dopo aver visto quelle scene in Parlamento dove esultano per aver affossato un disegno di legge sui diritti civili. La gente non vuole i migranti libici. Magari bastasse un padre nostro a rendervi cristiani come il nostro signore. Come un animale ferito, mutilato, disgraziato, sono quelle carni le ferite. Il giorno sono la notte per me giorno sono nato di nascosto senza Afrodite. Una danza antica tribale, ti fa ancora respirare. La paura è una puttana a cui non si può rinunciare. Qua il mondo piange a una discarica. Parlano d'amore e dopo. Cecilia, un brano molto forte di denuncia, insomma, dello stato attuale. Possiamo raccontare di lui che praticamente La mia giostra, il suo nuovo singolo, ce lo presenta e dà un carnet di un palmarès, come si suol dire, di tutto livello, perché tra gli 8 finalisti del premio De André nel 2022, in cui vince col suo brano Anima Sleale la targa del giornale La Repubblica, ma non solo, perché nel 2017 ha vinto il premio Mia Martini con il brano Cercavo un senso, uscito in anteprima ovviamente per questo festival. E poi via via diverse così esperienze musicali, addirittura al CET di Mogol, dove ha partecipato a una serata dedicato proprio a Mogol, dove lo ha anche vinto. Complimenti a lui, perché insomma una scrittura asciutta di denuncia, brano molto diretta, brano molto interessante e una voce anche interessante, nonché una ricerca sonora di tutto livello. E infatti gli addetti ai lavori puntano molto quest'anno su Cocciglia, ricordate quindi questo nome. E noi andiamo avanti, voltiamo pagina con Jacopo Rattini, viene a trovarci con Non sono più io. Non sono più io, mentre cammino per strada, mentre mi asciugo i pensieri da questa brutta giornata. Non sono più io, che perdo vita dagli occhi, mentre non voglio rischiare di dimenticarmi di me. Non sono più io, in questa guerra continua, che soffoca ogni secondo e non concede una tregua. Non sono più io, che se mi chiami per nome non mi vedi voltare. E correrò ai ripari anche stavolta per difendermi, perché ho capito che non è una colpa essere vulnerabili. Ma sono in piedi, ancora in piedi, mentre provo a fare pace con la mia parte peggiore. Rimango in piedi, ancora in piedi, e forse mi concedo di vivere come mi viene. Non sono più io, in questo mondo distratto che non si accorge di nulla finché non sente lo schianto. Non sono più io, che se mi guardo allo specchio non rivedo me stesso. Correrò e correrò ai ripari anche stavolta per proteggermi, perché ho capito che non è una colpa sentirsi fragili. Ma sono in piedi, ancora in piedi, mentre faccio ancora pugni con le mie contraddizioni. Rimango in piedi, ancora in piedi, e forse mi concedo di vivere. Jacopo Rattini, Non sono più io. Per chi segue Festival di Sanremo o altro, sicuramente un nome che avrete già sentito. Dopo essersi laureato in psicologia nel 2007, comincia l'attività appunto di cantautore, vince numerosi premi e festival nazionali di musica d'autore, tra cui Musicultura e poi il premio Lunezia, e nonché partecipa a Sanremo Lab, dove appunto gli permette così di saltare la staccionata e arrivare a Sanremo, al Festival di Sanremo 2010, nella categoria Nuove Proposte. Lui ha 3 dischi all'attivo, che è poi uno licenziato, se non sbaglio, dalla Universal, e poi insomma diverse altre esperienze anche in teatro, se non sbaglio. Ha scritto anche un libro, è fondatore di una etichetta musicale e nel 2019 addirittura ha creato l'Accademia del Songwriter, un'accademia insomma didattica online di corsi di scrittura creativa. creativa. Devo dire, esatto, e poi un grande creativo. Complimenti a Jacopo Rattini, questo è il suo singolo. Io, si intitola, scusate, Non sono più io, appunto, Jacopo Rattini. A questo punto invece diamo spazio a una voce che già conoscete. Qui ci alziamo in piedi, La conoscete già, si chiama Loredana Errore, ci presenta il suo nuovo singolo. Si annuncia da solo, ascoltando. Sai, la gente strana, prima si odia e poi si ama. Cambia idea improvvisamente, prima la verità, poi mentirà lui senza serietà. Come fosse niente. Sai, la gente è matta, forse troppo insoddisfatta, segue il mondo ciecamente, quando la moda cambia, lei pure cambia continuamente, scioccamente. Non è mica facile cantare Mia Martini e bisogna avere anche un bel orecchio e una buona conoscenza delle liriche e della musica per poter fare dei raffronti come fanno a tale quale, perché io non sarei capace, onestamente. Esattamente così per una voce che già conosciamo, Loredana Errore. L'avevamo vista, se non altro, da Amici, e da lì che è partito il suo successo, e devo dire, insomma, ha dato ampiamente dimostrazione di saper fare la cantante. Numerosi premi vinti da lei, tra i quali Wind Music Awards, ricordiamo, e poi, insomma, diciamo, questa è un'anteprima, perché l'abbiamo anticipata di ben due giorni, questo brano che darà il via all'uscita, appunto, dell'album che appunto fra due giorni esce ufficialmente, e se non altro si intitola, mi sembra, Stelle. In quest'album sarà contenuto, per esempio, La Sera dei Miracoli di Ron, se non sbaglio, di Lucio Dalla, Almeno tu nell'universo, Miserere, Adesso tu, Blu Celeste, insomma, ci saranno diverse hit single rifatte a suo modo, insomma, come questo nuovo arrangiamento di Almeno tu nell'universo. E a proposito, cantare Mia Martini non è affatto esattamente facile. E a proposito di Almeno tu nell'universo, in praticamente The Voice 2 abbiamo visto appunto in The Voice Senior, ecco, esattamente, abbiamo abbiamo visto una cantante che si è presentata e ha cantato proprio Almeno tu nell'universo con grande encomio appunto di Loredana Bertè, che è insomma l'ha poi caparrata nella sua squadra. Tra l'altro ottimo successo per The Voice Senior, perché ha appunto ha vinto lo share di quella serata col 23%, ottimo inizio per un programma insomma che musicale non andava poi così bene nelle scorse edizioni. Adesso invece Paoletti, e adesso velocemente dopo Loredana Errore ha un grandissimo ritorno anche per una voce che conosciamo, che solitamente cantava anche jazz, insomma faceva anche molta sperimentazione, un artista a 360 gradi, perché non fa solo la musica pop ma fa la musica proprio a 360 gradi. Lui è bravissimo, si chiama Giuseppe Cucè, viene dalla Sicilia se non sbaglio, ci presenta il suo nuovo singolo dal titolo La mia idea, La mia dea. Quando ero un bambino era lei sempre al mio fianco, un profumo di rose e di lavanda si sentiva quando lei mi stringeva più forte, pelle candida e vellutata che il tempo non sfiorisce, lei vive solo per amarmi. Vive solo per amarmi. E vorrei che restasse per sempre al mio fianco e che il tempo si fermasse. Il patto farei con la morte affinché possa vivere per sempre. Una luna avvolgente avrà cura di me, di giorno il sole splende, non invecchierai mai, con il silenzio e la pazienza resterai per sempre uguale, mi perdonerai come le stelle. Ti porterò con me a ballare, quel valzer che ti piace in riva al mare. E vorrei che restasse per sempre al mio fianco e che il tempo si fermasse. Il patto farei con la morte e vorrei regalarle un sorriso ed il sogno. E che il tempo si fermasse, il patto farei con la morte affinché possa vivere per sempre. Quando vi dicevo che appunto il nostro Giuseppe Cucè è un artista a 360 gradi, pensate un po', inizia il suo percorso musicale, anzi prima il suo percorso artistico è quello come pittore, dove praticamente si fa catturare appunto dalla pittura, ma poi si fa anche così catturare dalla danza contemporanea fino poi ad arrivare alla musica, insomma una sorta di artista a 360 gradi, come vedete gli artisti, non so, sul telefilm Fame saranno famosi, insomma. Complimenti a lui perché ritorna alla musica dopo il precedente, che appunto era Di estate non si muore. Questo è il suo nuovo singolo e devo dire ci piace molto, una voce importante, direttamente appunto. Bella anche la musica. Sì. Direttamente da Catania, se non sbaglio. Complimenti a lui, ben ritornato alla musica. E a questo punto, regia, cosa abbiamo? Adesso abbiamo la nostra beniamina, la bolognese Elle, che lei ha avuto l'onore di intervistare circa un mese e mezzo fa. Sì. Nel suo spin-off di approfondimento, le interviste di Easy Pop. Sì. Esce con il nuovo singolo Oggi è già ieri, il domani è eterno. Elle. Oggi è già ieri, il domani eterno, e nessuno fra noi vivrà per raccontarlo. Dimmi perché ti serve una scusa per fare del bene. Adele, oggi è già ieri, il domani è eterno. Una poetessa in questa canzone. Esattamente così, ma del resto ci è abituato a delle canzoni dal contenuto molto forte, molto interessante, insolito. In versione cartacea ed ebook è uscito il libro Carovane per la zona contemporanea 2023, di cui appunto Adele è autrice e firma appunto questo libro. Contemporaneamente è uscito anche questo singolo che abbiamo ora ascoltato, e che dire, insomma, che anche questa volta ha fatto centro. Complimenti a lei, insomma, e se volete un approfondimento più intenso, sicuramente il nostro programma, il nostro spin-off appunto di Easy Pop vi attende, perché c'è proprio un'intervista che dura una ventina di minuti dove approfondiamo appunto questo personaggio e conosciamo meglio questa cantautrice, che poi si chiama Lisa Brunetti. Detto ciò, che dire? Adesso viene a trovarci un nuovo cantante emergente, si chiama Canella e la sua canzone è Stadio. Dopo Paoletti ce ne parla. Cantavamo canzoni alla radio, diretti in un posto lontano, in due sembravamo uno stadio. Hai ragione tu, va bene, ok, ma chissà della ragione cosa te ne fai. Se siamo ai poli opposti ma ci respingiamo, e come lancette poi ci rincorriamo. E se vuoi andare via, va bene, vai, ma non è detto che poi torni e mi ritroverai. Se come notte e giorno noi non ci incontriamo, siamo orologi rotti e qui ci fermiamo. Cantavamo canzoni alla radio, diretti in un posto lontano, in due sembravamo uno stadio. E ora sono un estraneo. Andavo fuori di testa e gridavo, ma tu gridavi sempre più forte. In due sembravamo uno stadio. Io ancora ti amo. Non richiami più, va bene, ok, vorrei sapere come va, ma sono fatti tuoi. E fare certe strade adesso mi fa strano, il semaforo è giallo ma non ci fermiamo. Sta piovendo così forte che tra le gocce scende anche qualche stella, e forse questa pioggia farà ricrescere quei petali caduti a terra. Cantavamo canzoni alla radio, diretti in un posto lontano, in due sembravamo uno stadio. Sono un estraneo. Andavo fuori di testa e gridavo, ma tu gridavi sempre più forte. In due sembravamo uno stadio. E io ancora ti amo. Siamo lucciole d'inverno che si spengono e chissà dove vanno poi gli stormi, sorvolando la città. E le stagioni cambieranno e resteremo qui a metà, e con le piogge d'autunno un fiore crescerà. Cantavamo canzoni alla radio, diretti in un posto lontano, in due sembravamo uno stadio. E ora sono un estraneo. Andavo fuori di testa e gridavo, ma tu gridavi sempre più forte. Canella, Stadio, mi piace molto questo brano. Una voce potente, molto interessante. In realtà si chiama Enrico Fiore, in arte Canella, però lui aveva già inciso sotto il pseudonimo di Eden. Proprio con questo nome, se non sbaglio, è arrivato anche alle finali di Sanremo Giovani, però non è passato. Però ciò non l'ha fermato, perché ha due album al suo attivo, tra cui questo ultimo si chiama, se non sbaglio, Ore Piccole, dove dietro c'è anche lo zampino della Marta Venturini, che insomma è una grande sponsor di nuovi talenti giovani davvero interessanti, che insomma come noi, come lei Paoletti, come me, che poi esatto, e quindi praticamente gli ha dato insomma, a noi piace insomma seguire i giovani, perché ci sentiamo giovani e siamo sull'onda giovane, e non via, andiamo insomma su certi discorsi che roviniamo tutto il progresso subito. Comunque, Canella per voi e per noi, ce l'abbiamo ancora sottofondo, e tra l'altro insomma ma se è sponsorizzato da Marta Venturini è come fosse sponsorizzato da Mara Marionchi, per dire, perché insomma se Mara Marionchi da una parte adesso fa la televisione e non produce più, ci pensa Marta Venturini, quindi insomma ascoltate, comunque date una chance anche a Cannella, soprattutto al talento di Marta Venturini. Ore 15:56 di oggi domenica 15 gennaio sulle frequenze dei 103.10 di Radio Città Fugito. È già finita. Ultimo brano, viene a trovarci Ham Griner o Greener con la sua Burn the Boats, dopo Paoletti ce ne parla. Qui andiamo nella Sophisticated Music. Perfetto. Di Ham Griner o Griner, perché diventa difficile stabilire quale sarà la corretta pronuncia di un cognome di origine anglo-canadese. Sì, sì, è proprio così. Boats, finisce Burn... anche questa puntata. Di beh, do qualche informazione prima. Certo. È così. Burn the Boats segue Valencia come secondo singolo tratto da Business and Pleasure, il nuovo album della cantante canadese Ham Griner, intriso di soul e sound anni 70-80, si sente di musica un po' sofisticata. Lei è stata anche tastierista di David Bowie. E quindi hai capito, insomma. Niente male, un bel biglietto da visita. E a questo punto, regia, sento già la sigla. Pre-sigla. A questo punto cominciamo a salutare tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici, in particolare Pierluigi e Stefano di Vicenza. Certo. Un saluto a loro. Salutiamo anche tutti coloro che non hanno scritto. Simone per la Sophisticated, e poi c'è Riccardo dalla Sicilia. Saluto i miei, baci e bracci, perché insomma mi sentono così indifferita. Ma che dire? Esatto, che dire? Appuntamento domenica prossima, vi lasciamo la programmazione di Radio Città Fugico. Bye bye dal Bolognese Volante. E da Franco Paoletti, bye bye. Avete ascoltato il C-Pop, che vi dà appuntamento a domenica prossima, alla stessa ora, e vi augura un buon proseguimento sulle frequenze di Radio Città Fugico. も力だ。両手つじる。